Senti, bella partita ieri Milano, che mi ha sorpreso anche dal punto di vista estetico, se mi permetti. Credo che abbia sorpreso tutti, perché è una Milano nuova. Sì. È una Milano che si è presentata a questi play-off con delle novità che non aveva ancora mostrato, e ieri sera ha giocato una bellissima pallacanestro e ha battuto Caserta usando quelle che sono state le armi di Caserta per tutto il campionato, quindi la capacità di avere un'organizzazione e all'interno delle individualità che sanno poi risolvere molti problemi. È stato così con Amorò, è stato così con Aldo, e quindi è una Milano che si propone per questi play-off con una immagine nuova, sicuramente più spettacolare, più divertente, e quindi adesso vediamo cosa succede in questa serie innanzitutto. Senti Gianni, io però vado con il mio amico Dan Peterson. A me non piace tantissimo vedere una squadra che si fa il maquillage alla vigilia dei playoff, che ha vissuto una stagione molto diversa. È chiaro che Arnold e Morò ieri hanno giocato una partita straordinaria, non possono essere sempre giocatori così. Al di là di questo... No, io sono assolutamente d'accordo. Io infatti credo di essermi anche sbilanciato, sì, come fa solitamente Dan nei pronostici all'inizio di questi play-off sulla serie, e dove sono convinto che una squadra come Caserta, che inizia con la sua identità e che porta avanti un certo lavoro, che quindi gode di un lavoro alle spalle, alla fine anche nei play-off probabilmente venga premiata. Però è anche vero che insomma il nostro mondo, la nostra pallacanestro, ci ha abituato anche in altre occasioni dove un colpo di genio, diciamo una novità, un'intuizione nel cambiare volto a una squadra ha dato dei risultati. Insomma, era parecchi anni che non succedeva questo, non lo so se succederà anche questa volta, però sicuramente è un dato che va registrato questo.